E lentamente alle 13.02 cominciamo con Tabula Rasa, quindi buongiorno Vince, eccoci. Buongiorno socio, buongiorno a te. Siamo... oggi veramente io torno dopo una settimana. Dopo una settimana, non siamo abituati, è la prima volta che facciamo sta mattata di tornare in onda la settimana dopo e poi torneremo di nuovo a... alla frequenza di ogni 15 giorni. Puntata oggi con tre ospiti che starà a te presentare come sempre. Sta a me perché sono più preparato e sono più secchione. Allora cominceremo con Alessandro Robecchi che ci parlerà del suo libro Torto Marcio, recentemente pubblicato da Sellerio. Un libro, siamo oggi con un libro in classifica, hai capito? Un best sellerista. E poi invece andremo a parlare con Mario Desiati che ci parlerà del suo Candore. Candore è il titolo del libro Inaudi pubblicato qualche mese fa, con una tematica che riguarda il porno e le sfaccettature del porno ma all'interno della capitale romana, quindi anche uno sguardo molto interessante sulle periferie orientali. E l'ultima ospite è Maura Sassara della casa editrice Exorma, che ci spiegherà come mai domani sulle classifiche dei libri troveremo un libro Exorma dopo due anni che è uscito ed improvvisamente schizzato su, anche in questo caso, nelle classifiche. Quindi andiamo il buongiorno alle 13.05, Alessandro Becchi, ciao. Ciao, ciao a tutti. Buongiorno Alessandro, abbiamo promesso puntualità e puntualità è stata stranamente per questa trasmissione. Siamo stati così puntuali che non siamo neanche riusciti a presentarti. Quindi Alessandro Robecchi, editore ex e diciamo editorialista del Manifesto, fra le firme di cuore, attualmente scrive per il Fatto Quotidiano, pagina 99, Micromega, ed è autore di un libro che si chiama Torto Marcio e che non è il primo libro che tu pubblichi con Sellerio. Una storia estremamente complessa da raccontare perché ci sono più linee narrative, quindi ti pregherei non mi dare questa incombenza, te ne occupi tu così non spoilerizzo nulla, te la vedi direttamente tu. Sì, è questa della trama da raccontare nei gialli è sempre un casino perché non si sa dove fermarsi. Comunque, insomma, diciamo così che a Milano si trovano un paio di morti ammazzati, tutti e due con un sasso messo sul corpo, quindi una firma, una firma, un simbolo, un segno, non si sa, non si capisce, e diciamo la città impazzisce perché la paranoia securitaria la conosciamo bene, e figuratevi in una situazione simile una città che ha chiamato l'esercito nelle strade per un accoltellato in piazzale Loreto, che potrebbe fare con due morti eccellenti sul groppone che poi diventano tre. Comunque indaga una squadretta distaccata della questura, perché l'indagine vera è stata avvocata dal ministero, i servizi, terrorismo, paranoia, aiuto, e questa squadretta molto agile indaga. In un'altra, diciamo, come hai detto tu, linea narrativa, c'è cioè il mio protagonista che è Carlo Monterossi, che è un signore dei quartieri alti, insomma, però con un certo senso di giustizia, sta facendo per conto suo un'altra indagine e inciampa in un indizio che potrebbe aiutare l'indagine vera. Ecco, mi fermo qui perché se vado avanti. Ok, ti fermi qui, però io invece proseguo dicendo cioè arricchendo di un particolare. Carlo Monterossi è un autore televisivo e sì. Poverino, è un autore di una trasmissione, diciamo, che lui odia. E anche tu sì. Sei un autore televisivo. Sì. Quanti segreti ci sono nella televisione? E puoi spiegare perché a chi ci ascolta Carlo Monterossi odia quella trasmissione? Ma dunque, a me serviva un personaggio, come dire, non risolto, che non fosse in pace con se stesso, che non fosse soddisfatto di sé. E lui si era inventato questa trasmissione, addirittura un po' romantica, gozzaniana era l'idea all'inizio, no? Raccontiamo gli amori della gente comune, non dei VIP. Solo che quando tutto questo arriva nelle mani della TV commerciale, che lui chiama la grande fabbrica della merda, diciamo, tutto diventa quella schifezza che conosciamo, no? Sentimenti spiattellati davanti a tutti, pudore escluso da ogni gente che va a piangere in TV. Poi questa TV in questo libro diventa addirittura, come vediamo tutti i giorni, una TV del dolore, della cronaca nera, no? Molto, diciamo così, morbosa, perché lui si trova ad essere invidiato, molto pagato, molto, insomma, con un buon posto sulla scala sociale, molto invidiato per una cosa che lui detesta, diciamo, no? Ma se lui detesta la TV, invece Monterossi odia, ama qualcos'altro, o meglio qualcuno, è ossessionato da un cantante o da un poeta. Sì, ma cantante riduttivo, diciamo. No, allora, Don Nobel. Monterossi ha una insana passione per Dylan, per Bob Dylan, questo da tempi non sospetti, perché insomma già dal primo libro, 4 anni fa, c'era questa cosa, perché Dylan, come Shakespeare, come la Bibbia, insomma, c'ha sempre una frase, una strofa, un verso che può sottolineare degli stati d'animo, e lui, insomma, queste sue, lui che è un malinconico, queste parole di Dylan un po' leniscono il dolore e un po' affondano la lama, no? Che però è un po' quello che chiediamo ai poeti, credo. Quindi, insomma, e lui di poeta ha quello lì. Tu hai raccontato giustamente un fatto di cronaca, tra l'altro anche hai fatto riferimento a un fatto di cronaca, tra l'altro anche recentemente accaduto, no? Il morto ammazzato a Piazzale del Loreto, che ha fatto scattare l'ennesima psicosi collettiva che ha portato a un'ulteriore militarizzazione la città di Milano, ma poi sono cose che stanno avvenendo un po' in tutte le città. Però io ti ricordo che Milano è una città talmente pericolosa, tanto che l'attentatore di Belpietro ancora non è stato ancora trovato. ancora a piede libero. Quindi io non farei tutta questa ironia. L'attentatore di Belpietro che ancora non si trova, questo è uno dei tanti misteri italiani, che però forse quasi come Ustica, direi, potrebbe spiegarci Belpietro. E fa, ci sta Ustica e Belpietro, secondo me. No, ma a parte le battute, comunque, tu sei un autore abbastanza produttivo, più o meno esce un tuo romanzo l'anno. Sì, una volta all'anno, più o meno, finora, non è detto che vada avanti così. No, te lo chiedevo perché appunto, nel senso che quindi è un qualcosa che tu fai proprio in maniera abbastanza continuativa, nel senso che ogni anno più o meno ti metti a scrivere un nuovo libro. Ma veramente tutto è molto casuale, nel senso che io ho scritto il primo, questa non è una canzone d'amore, senza ovviamente assolutamente pensare alla serie, però insomma, diciamo, mi sono molto divertito a farlo, è andato molto bene, e poi mi sembra che il giallo ti consenta. E questo qui, Torto Marcio, è la prova approvata, insomma, il giallo ti consente di parlare della società e della città e del posto in cui vivi e dei meccanismi sociali che ci sono nella nostra vita in modo molto diretto, insomma, il giallo ha a che fare con il bene e il male, perché c'è sempre una vittima, un colpevole, e questo ci mette davanti a dei, insomma, ha dei dilemmi morali. Insomma, io credo che ciò che è legale non è automaticamente giusto, e spesso quello che è illegale è un po' più giusto. Come si dice nel libro, si parla un po' di occupazione delle case, no? Ci sono a Milano circa 10.000 alloggi popolari vuoti, e nel contempo c'è la gente che dorme in stazione. E sì, quindi io credo nel che nel contempo vanno avanti anche gli sgomberi. Fare un alloggio, ma sarà sempre meno ingiusto che far dormire dei ragazzini in macchina o alla stazione. tra l'altro appunto il modello milanese, come i modelli metropolitani, poi sono per l'Italia, no poi... no, appunto dicevo come sono, state poi attenti, non dire che non ve l'avevo detto. No, ma guarda, su quanto riguarda sgomberi e problema abitativo, Roma penso che sia veramente un must. Sì. Parlavi del giallo, che è uno strumento per cui permette di raccontare quello, cioè la nostra società, l'oggi, il quotidiano, tanto che un grosso della produzione narrativa che esce in libreria è più o meno oggettivo, spazia tra il noir, il thriller e il giallo, creando secondo me anche un po', avendo un po' anche un po' intossicato il mercato, nel senso che poi è difficile trovare ormai qualcosa di diverso. Questa è la mia sensazione da lettore, non te lo dico proprio senza nessun'altra. No, vorrei, appunto, non ci sta il rischio poi che questa overdose... Io credo questo: il giallo ha un oggettivo vantaggio, che è quello di tenere il lettore attaccato, perché insomma crea quell'effetto vediamo come va a finire, che in altri libri di narrativa magari non c'è. Dopodiché però io sono un po' più disponibile, nel senso che come in tutti i settori e come in tutti i generi, poi c'è la roba buona, c'è la roba che scimmiotta un po' la roba buona, vediamo se ci riusciamo, poi c'è un po' chi cavalca l'onda, però io direi più o meno, guardando le classifiche, che chi finisce lì sì, qualcosa da dire ce l'ha. Poi c'è, sapete com'è l'editoria, no? Quando un filone funziona ci si butta tutti a pesce, però io credo insomma che al momento la qualità media del giallo italiano, penso ovviamente ai miei colleghi Selleri o Manzini, vabbè Camilleri nemmeno lo dico, diciamo insomma, ma ci sia un livello abbastanza alto. Ecco, io credo che come c'è stata una scuola nordica, vabbè la scuola americana ovviamente è un classico di tutti i tempi, io credo che ci sia una scuola italiana del giallo che non va disprezzata. Ovviamente come al solito si rischia, sì, l'inflazione, si rischia che diventi una moda, però insomma questi rischi ci sono sempre, bisogna un po' affrontarli in modo intelligente, insomma. Tornando al tuo torto marcio, diciamo che secondo me il rischio non lo corri di una banalizzazione, anche grazie a un'ottima stratificazione tematica. Non soltanto c'è l'intreccio delle linee narrative, ma c'è un tentativo di analisi, anche di contestazione di diversi luoghi e non luoghi. Io che non conosco molto bene Milano, oltre ad aver avuto questo indizio, una città cattiva, sapete, se venite qui portatevi dei soldi, ho anche imparato qualcosa che non avrei mai sospettato, ovvero dell'esistenza di un quartiere malfamato proprio attorno a San Siro. C'è questa convivenza fra alto e basso, fra borgata, si direbbe qui a Roma, e palazzi alti, che disconoscevo. Quel tipo di piazza che descrivi sembra quasi Scampia. Sì, che Milano ha una geografia diciamo anche emotiva diversa da Roma, perché Milano è una città piccola alla fine, cioè in metropolitana in 20 minuti la attraversi, non è una città grande, e questo fa in modo che convivano, sai che Milano, la percezione di Milano che si ha in Italia è sempre quella, moda, design, tanti soldi, belle vetrine eccetera eccetera, tutta roba che esiste in natura, che però nella narrazione quotidiana viene presentata come l'unica Milano possibile. Milano non è così, persino il quartiere San Siro, che per certi versi è un quartiere di ricchi, cioè ci sono le ville con le piscine, a 300 metri poi c'è questa specie di enclave, parliamo di 6.000 appartamenti, quasi 20.000 persone, 25.000 persone, cioè in altri posti d'Italia farebbe provincia, ecco, di case popolari, degradate, con italiani poveri, quasi tutti vecchi, molta immigrazione, cioè è una realtà che non viene mai raccontata di Milano, e che sta a un chilometro in linea d'aria da via Monte Napoleone, no? Dai templi celebrati della Milano lussuosa. Ecco, questa differenza a me, questa diseguaglianza così palpabile, così palese, secondo me va raccontata. E un altro aspetto che è raccontato, comunque accennato, è anche l'aspetto delle carceri. Hai accennato al numero delle morti in carcere, anche quello è un aspetto che spesso il giallo mediterraneo, il noir che sia, non sempre tratta, e quindi mi è sembrato anche questa una nota. Sono contento che noti questo, perché sono un lettore intelligente. È una cosa che passa sempre un po' in secondo piano, in effetti è un passaggio della trama, diciamo, abbastanza fondamentale. A un certo punto un indizio porta a un morto di malattia in carcere, e insomma in 10 anni noi abbiamo avuto più di 200-250 morti di malattia in galera, cioè vuol dire gente non curata, e questo secondo me un paese civile non lo deve fare. Insomma, se uno è malato va curato, e persino i poliziotti che indagano, quando scoprono questa cosa, si mettono le mani nei capelli, dicono vabbè, ma noi ci facciamo il sangue marcio per prenderli, ma non per condannarli a morte, no? E questa è una cosa che a me interessa, cioè tutte le tematiche relative ai più deboli, agli ultimi, agli sfigati, ai poveracci, a quelli che non sono funzionali al modello Milano, che presto diventerà il modello Italia, non sono raccontati. Ecco, questo è male, male, malissimo, bisogna raccontarli di più. Ci sei? Sì. Pronto? Sì, sì. Ah no, ecco, perché ho avuto la sensazione che fosse caduta la linea, perdonami. No, dall'altro hai fatto riferimento, no, alle morti in carcere tra ieri e oggi. Tra Roma e Bologna se ne sono registrati due, per due detenuti che si sono tolti la vita, l'ultimo a Regina Coeli, di 22 anni. No, dicevo che poi sì, è una piaga. Sono tantissimi. No, perché poi appunto sono temi che sono poi quotidiani e che spesso e volentieri al massimo trovano un trafiletto sui giornali, esatto, invece esatto, di interrogarsi, sì, su quello che significa. Perché non è bello raccontarli, non è edificante, non è ottimista dire che c'è la gente che si ammazza in galera, capito? E, assolutamente. E questo fa in modo che sia una narrazione un po' sconveniente, e invece esiste in natura e quindi bisogna parlarne. Ok, grazie mille Alessandro, noi ti ringraziamo, ti facciamo un'ultima domanda che è tipica, ultima domanda: cosa hai letto recentemente o anche non recentemente che ti è piaciuto particolarmente e vorresti consigliare a chi ci sta ascoltando? Dunque, ho letto uno semi sconosciuto giallista americano degli anni 50, un libro secondo me strepitoso che si intitola Il mio angelo alle ali nere. L'autore è Elliot Chase, scritto Chaze, diciamo, edito da un piccolissimo editore che è Mattioli, 1985, e che è veramente delizioso, contiene tutti gli stilemi del noir. Abbiamo intervistato in Paolo Cioni un paio di settimane fa, appunto abbiamo anche parlato con lui di Mattioli 1885. Ti ringraziamo Alessandro e ciao, buon sabato. Grazie a voi, grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao. La lune laisse apparaître le vrai visage des gens. Fais pas traîner ton fils si tu veux pas qu'il pisse le sang. You might like this one. I'll play it for you next time. You think we'll last? But whatever you wish to keep, you'd better grab it fast. He understands your orphan with his gun. Crying like a fire in the sun. Look out, the saints are coming through, and it's all over now, baby blue. gamblers that I use your sin. Take what you have gathered from coincidence. Nel frattempo state ascoltando Bob Dylan con It's All Over Now Baby Blue. Prima di andare a sentire il nostro secondo ospite, the sky too is folding over you and it's all over now baby blue. All your seasick sailors, they're all rowing home. All your reindeer armies, they're all going home. The lover who has just walked out your door has taken all his blankets from the floor. The carpet too is moving under you and it's all over now, baby blue. Diamo il benvenuto a Tabula Rasa con un buongiorno a Mario Desiati. Ciao. Ciao, buongiorno a voi. Eccoci. Mario, era tantissimo tempo che volevo dire questa roba. Mario Desiati che vive fra Centocelle e Berlino, un autore internazionale. Posso presentarti così? Ma una vaga risa per il culo, però va benissimo. No Mario, invece non ti prenderemo per nulla per il culo, perché vogliamo parlare di Candore, il romanzo che ha pubblicato Einaudi nel 2016, un tuo esordio in Einaudi ovviamente, non all'interno del gruppo, ed è un... però in realtà non è un tuo esordio, cioè sì, è un esordio in Einaudi, però Candore alla fine secondo me racchiude tanto di quello che avevi già scritto. Siccome non è per pigrizia, ma mi sembra che sia la cosa migliore, ci racconteresti un po' la storia di Candore, di Martino Bux? Ma lui è un uomo che ha una grande passione, una passione che però per il 99% delle persone è una passione riprovevole, perché lui è ossessionato dalla pornografia. E da quando, all'inizio degli anni 90 fino ad oggi, come dire, lui ha a che fare dai cinema a luci rosse sino al mondo di Snapchat e degli amatoriali che girano sui social. Lui insomma attraversa tutta la storia della trasgressione italiana, europea, americana, ma soprattutto quella italiana, che è un po' cucita sulla sua pelle. Soltanto che diciamo questa sua ossessione inizia ad avere dei problemi nella sua vita, inizia a portare dei problemi nella sua vita che soprattutto nei rapporti relazionali, e quindi lui si innamora solo di donne che assomigliano alle attrici che ha visto nei film, si ovviamente a luci rosse, si cerca lavori soltanto in posti ambigui e particolari, dove ci sono dove si respira quell'aria, che possono essere i locali di strip, oppure che possono essere i sexy shop come nella seconda parte del libro, eccetera eccetera. Tutto questo in un continuo rapporto col senso del pudore dell'Italia di questi ultimi 30 anni. E tra l'altro tutto ciò con grande candore, come dice il titolo, anche nel candore nell'affermare qualcosa di simile, che ad esempio non ci si fa belli per amare ma per farsi desiderare, ecco, questa incapacità di accettare una relazione sentimentale e traslarlo invece sul senso del desiderio poi mai appagato, mi sembra una delle chiavi meglio riuscite del tuo libro. Ti volevo fare parlare però un attimo di un paragone ardito e del quale si è discusso abbastanza quando il libro è uscito, il paragone fra Siffredi e Pasolini. In realtà il protagonista del romanzo si imbatte a un certo punto della sua vita, si imbatte nel casting di un film di Rocco Siffredi nella Roma della metà degli anni 90. Il film è Mai dire mai a Rocco, che fu girato nel novembre del 1993, e lui si imbatte nel momento in cui c'è questo casting che avviene fra della gente che non fra degli amatori, persone che non sono attori, sono persone prese dalla strada, un po' come faceva Pasolini nel suo cinema più famoso. Cosa succede? Che lui vive questa traslazione, siccome lui tutto ciò che è attorno a lui per lui diventa immediatamente pornografico, nel momento in cui lui si trova a fare lo studente di lettere e si trova a dover parlare di un personaggio, di uno scrittore del Novecento, sceglie Pasolini perché in qualche modo Pasolini gli ricorda Rocco Siffredi, perché è questa la testa di Martino Bucci, il protagonista del romanzo. E tutto ciò che attorno a lui, dalle cose più alte alle cose più basse, hanno a che fare col mondo del porno. Ovviamente è una provocazione, è un piccolo paradosso, ma poi insomma ha fatto sì che questo dialogo, questo suo surreale esame universitario che avviene nelle pagine 30 e seguenti del romanzo sia diventato anche un po' un divertissement letterario sul quale si sono esercitati critici, ma si è esercitato lo stesso Rocco, che ne ha parlato in una trasmissione di Auger, che insomma aveva letto il romanzo e si era un po' rivisto in questo paradosso. Ascoltami, in diverse recensioni che ho letto riguardo il tuo romanzo, più di qualcuno ha fatto il paragone tra il tuo protagonista e il protagonista del romanzo di Susskind, Il Profumo. Non ti ha fatto piacere o ti ha infastidito questa cosa? Perché l'ho letta su... Sai, sinceramente quando ci sono i paragoni, come dire, a chi scrive fanno sempre in qualche modo, accendono delle luci, piacere o dispiacere, quello no, dispiacere no, però mi ha incuriosito, perché poi è un romanzo che ho letto tantissimi anni fa, che ho letto diciamo quando ero poco più che un ragazzino, però c'è qualche cosa, ma veramente molto molto sfumato, ed è probabilmente il fatto che si cerca continuamente, come il protagonista del romanzo di Susskind, c'è un tentativo disperato di dare un senso alle cose a cui gli altri non danno senso, e questo però ti rende molto solo. Infatti, come quel romanzo, anche qui è una storia sulla solitudine. Però entrambi i protagonisti sono dei personaggi anche un po' ossessivi e ossessionati. Sì, beh, l'ossessione è il suo scandalo probabilmente, e poi credo che ognuno di noi abbia un'ossessione, tutto sta a conviverci in maniera, come dire, sana, oppure a rendersene schiavi. Poi io sono la persona più sbagliata, perché io anche come... pochino come Martino Bucci mi lascio trascinare dei miei desideri fino alle estreme conseguenze. A proposito di ossessioni, proprio la settimana scorsa avevamo intervistato Francesco Pacifico, che ci raccontava la sua esperienza di traduzione di Motel Voyeur, quindi anche lì un'ossessione. L'ossessione di Martino Bux, ecco, recentemente mi era capitato di discutere del tuo romanzo e del romanzo di Cognetti, e mi divertiva il paradosso che Cognetti scrive un romanzo sulla montagna, quindi che dovrebbe essere ascetico, eppure scrive un romanzo estremamente fisico, corporale, di piedi. pietre, di legno, di materie, mentre il tuo romanzo, che dovrebbe essere un romanzo sul corpo, mi sembra un romanzo estremamente metafisico, rarefatto, fatto di sensazioni, proprio perché non si arriva mai al corpo vero e proprio. Ho anche una conferma scritta attraverso una tua citazione, che è: il porno del futuro era senza sperma, senza umori, senza carne. Quindi adesso dovresti darmi ragione. Beh, come tutti i paroli, insomma, che Martino Buxi è un più parolo e io anch'io sono, faccio parte della categoria, ovviamente il porno è senza materia, è fatto appunto di immaginazione, di desideri che non si realizzano. Quale grandezza migliore può esserci nel desiderio, proprio nel non realizzarlo? Infatti poi alla fine è un libro su voyeurismo, un libro sulle cose che si guardano ma non si riescono mai a toccare, perché non si vogliono toccare, oppure che non si riesce a toccarle. Diciamo, questa è una dei grandi interrogativi che mi pongo io ancora oggi, nonostante abbia scritto questo romanzo. Però, diciamo, tu guardi e non tocchi, e invece la geografia romana sembra che tu la tocchi molto. Ovvero, mi sembra che le tue descrizioni di Centocelle, dei tram, della Prenestina, della notte romana povera, sia molto ben riuscita e sia anche molto esperienziale. Addirittura in certi casi mi sembra che sia quasi eccessiva. Mi sembra quasi che ci siano situazioni e panorami e paesaggi da Mad Max, cioè quasi estremi rispetto a quella che è la realtà della notte a Centocelle. Oppure io non la percepisco più così perché esco troppo poco, Mario. Ma tu li stai prendendo i mezzi pubblici notturni? Ma io una vita ho preso i mezzi pubblici, sono un paio di anni che non li prendo, quindi mi confermi che... Diciamo che io, diciamo, vivo sui mezzi pubblici notturni, e quando sento parlare di Roma, quando leggo di Roma, sono diversi approcci che si possono prendere. L'approccio, insomma, dagli approcci che valorizzano più i suoi lati, insomma, i lati di questa città meravigliosa, l'approccio appunto dalla grande bellezza, oppure l'approccio della Roma con le sue contraddizioni, oppure anche l'approccio della Roma con le sue ferite, oppure con la sua straordinaria gran umanità. Luogo per me non soltanto letterario ma di vita, ma di ispirazione, sono stati i mezzi pubblici di questa città, in particolar modo i mezzi notturni, che sono rarissimi e che portano dentro di sé la parte della città che si conosce molto poco, che conoscono molto poco anche i politici che poi governano questa città, cioè coloro che vivono sui tram, che vivono sugli autobus blu che la notte percorrono le consolari e che vanno verso la periferia. Che spesso anche i romani stessi conoscono poco, scusami se ti interrompo. A volte sì, ma là, diciamo, io recentemente mi sono trovato a delle situazioni, come dire, peccato che avessi già scritto Candore, perché avevo inserito nuove scene, una scena tipica, insomma, qui è molto divertente, qui mi ritrovo. E passare la notte a Porta Maggiore in attesa di questo fantomatico 12 notturno che ci riporterà verso i nostri quartieri. Quando il 12 notturno arriva a Porta Maggiore è l'autobus di Fantozzi, nel senso che ci sono le persone con le teste, i crani che escono dal finestrino, si aprono le porte davanti alla fermata, esce un calore pazzesco, cioè esce proprio il calore, anche se inverno, degli odori incredibili, le persone che vogliono uscire dall'autobus non riescono a uscire, le persone che invece volevano rimanere, che però erano in prossimità delle porte, vengono espulse dalla folla, l'autobus si richiude e riparte con, diciamo, una dozzina di persone che gli corre dietro. Sono scene che, come dire, raccontate così possono anche possono sembrare assurde, ma sono vere. Io a volte ci rido sopra, perché è l'unico modo per viverle rimanendo sani, però allo stesso tempo non puoi non raccontarle. Per me sono in qualche modo raccontano una parte di questa città fatta di queste sue contraddizioni, perché poi vai in centro, come una città moderna, comunque, che fa della sua delle sue bellezze, del suo punto di si forza con il turismo, eccetera, eccetera. Però non puoi raccontare la notte di Roma senza prescindere da questo. E poi dalle contraddizioni dei due poteri, nel senso che io racconto sempre un aneddoto, ed è il motivo per cui secondo me era perfetto per raccontare un romanzo che avesse il tema del porno, una città come Roma, dove si uniscono due aspetti, potere spirituale e potere temporale, una città dove sembra che nulla si possa fare ma tutto si può fare, dove sembra che non ci siano locali dove si commetta qualche peccato ma in realtà ci sono molto di più che nelle altre capitali europee rispetto a quello che si pensa. Io ricordo che un tempo andai in un sexy shop dove parlavo col suo titolare e parlavamo ovviamente di altissimi sistemi, cioè parlavamo di Kant, di Proust, no? E la cosa che si chiede in qualunque negozio molto spesso è: ma come vanno gli affari? E lui mi disse: guarda, era un sexy shop nei pressi della stazione Termini, guarda, lui, era 3 anni e mezzo fa quando io feci questa domanda, e lui mi disse: ma speriamo che questo Papa nuovo ci faccia un bel giubileo, perché quanto ho guadagnato nel giubileo del 2000 non ho guadagnato mai più. Ecco, era la prima volta che sentivo una persona che aspettava con ansia il giubileo, ed era il gestore di un sexy shop. Questa è in qualche modo Roma, la Roma delle contraddizioni, perfetta per questo romanzo sul pudore. Sì, tra l'altro, appunto, che tra l'altro viviamo un'epoca sempre molto, molto più moralista, nonostante poi invece l'immagine che passa di tutto ciò che viviamo invece sembra molto più sbarazzina di quanto non sia poi in tutti gli effetti, perché viviamo in una società, almeno quella nostra, quella italiana, che è molto ma molto moralista e sempre più bacchettona, e ce ne accorgiamo dalla mattina alla sera. Tra l'altro prima raccontavi gli spaccati degli autobus notturni, e parlavi del 12, mi viene in mente il 105, quella sorta di carro bestiame, perché così tratta gli utenti l'ATAC notturni, che poi fondamentalmente sono il grosso dei lavoratori che staccano tardi la sera, camerieri, cuochi, spesso e volentieri migranti e sottopagati, costretti appunto a prendere questo mezzo che passa ogni morte de papa, e se attraversa tutta la Caserina, ma già a Porta Maggiore non è che è gonfio ma di più, veramente c'è la gente aggrappata, sembra sul serio l'autobus, il famoso autobus di Fantozzi che sale la tangenziale quasi 40 anni fa. Ma il 105 almeno mi sa che almeno è quello di giorno. Il 105 è anche di notte, è anche notturno. Lasciati servire da chi conosce Centocelle. Io e Mario, che siamo autoctoni della zona, sappiamo che è il 12 o il 18, Mario, quello fa la Prenestina. In caso se... Il 105 fa la Caserina, fa la Caserina, ma non fa la Caserina. Fino a mezzanotte. No, fa anche il notturno il 105. Poi faremo una ricerca col mio socio, i due che dibattiamo. Lo vedo, lo incontro, io lo esco quasi mai, ma ogni tanto quando esco e faccio le due. Scusaci, vai. Però noi invece sì, io e Vince siamo da 12 12 o 18. Molto bene, Mario, senti, ti volevamo salutare con due domande. In realtà io ti avevo un dubbio: come stai facendo in questa tua vita da pendolare appunto fra Centocelle e Berlino a seguire il calcio, punto primo, perché ti sono partito? No, in realtà lo seguo molto, cioè continuo a seguirlo, poi in realtà una volta al mese sono a Martina Franca, quindi quando vado a Martina mi ritrovo al campo Pergolo, dove gioca la mia squadra, che ha anche fatto un'iniziativa per Candore, perché hanno in una partita di campionato hanno indossato una maglietta con la copertina del romanzo stampata sulla maglietta, e hanno vinto 6-0. Beh, grande che fortuna. Sei il tifoso eccellente, quindi. Sì, in qualche modo sì. Anni fa ero stato anche avevo partecipato insomma anche a quello che era un po' il movimento degli ultras, che adesso invece hanno quella della mia squadra, che adesso però purtroppo è crollata in prima categoria, comunque ci rifaremo, risalteremo. Va bene, ti lasciamo allora ai tuoi corretti da stadio, ma prima di tutto dici e consigliaci un libro che hai letto recentemente e che vorresti appunto consigliare. Che ti è piaciuto? Che ti è piaciuto? Ma L'Art Minuta di Donatella di Pietrantonio. È un libro che è uscito da pochissimo, la conferma di una scrittrice abruzzese, dall'altro insomma l'Abruzzo è una terra che adesso sta dando anche molti scrittori alla nostra letteratura contemporanea, e con una lingua fuori dal comune e con un personaggio che lascia il segno, di cui ci si innamora. Sì, se non sbaglio, edizione Einaudi anche questo. Certo, sì. Per consigli di scuderia dei fiati. Va bene. Grazie mille, Mario. Grazie a voi. Ciao. Noi intanto abbiamo fatto le 13.42, siamo leggermente in ritardo sulla nostra tabella di marcia, ma ci andiamo ad ascoltare un'altra traccia, poi torniamo nuovamente in diretta perché abbiamo la nostra terza ospite per la nostra appunto terza parte e ultima di trasmissione. Une rumeur, c'est une information non vérifiée qui circule. Non vérifiée, ça ne veut pas dire faux. La base de toute rumeur, c'est un phénomène inexpliqué. Les rumeurs partent d'un événement un peu traumatisant et qu'il faut expliquer. Bon, il faut trouver quelque chose, parce que la douleur est trop forte. Faut arrêter de prendre les gens qui croient les rumeurs pour des imbéciles, etc. La rumeur, elle naît de l'incrédibilité. Même les choses n'arrivent pas par hasard. Cette rumeur, elle a un fondement. La rumeur, c'est ce que vous avez envie de croire. Et c'est ce que vous pouvez croire. Il y a toujours cette espèce de sélection qui fait que les gens reçoivent le message qui les concerne. Le travail nécessaire à toute rumeur, c'est de dire, si les gens le croient, qu'est-ce que ça indique ? Savoir vraiment à quoi je ressemble, au commun des banlieusards. Je connais ces murs par cœur, man, qui ont broyé notre enfance. Un peu de fierté tout de même sur des figures de salauds. Chasse naturelle, il revient au galop. Trop de galères, cousin, pour rien de glorieux. Si ce n'est que la une des sous-sols, des quelques fanzines sérieux, des quelques tribunaux vitrioles. Ne me demande pas de choisir entre la poudre et le plomb. Je suis ce feu qui se déclare dans un champ de coton. À ma fenêtre, le givre d'un jour d'hiver trop gris a ouvert un de mes livres au chapitre des incendies. Comme à l'accoutumée, comme un besoin trop mal sevré, j'y recherche des balles, quelques flèches létales et un peu de pomme au cœur pour la cuirasse d'un franc-tireur. Pour la cuirasse d'un franc-tireur. Un arsenal artisanal qui choisit ses mots comme on commet un homicide et parfume ses phrases de quelques gouttes d'acide. Notre époque encore est celle des arbres morts, à quelques pas à peine des plus belles fontaines. Et si tu n'es pas né où il fallait, il va falloir, comme dirait le vieillard, apprendre à voir clair dans le noir. Des coulisses aux planches, des coulisses aux planches, des jours sombres, nuits de revanche, nuits de revanche. Quelques rumeurs larvées, comme des braises qui menacent de s'enflammer après l'extinction d'un incendie. Des coulisses aux planches, des coulisses aux planches, des jours sombres, nuits de revanche, nuits de revanche. Quelques rumeurs larvées, comme des braises qui menacent de s'enflammer après l'extinction d'un incendie. Quand j'arpente ces couloirs, que l'angoisse me prend à la gorge, des millions de bactéries aux lèvres, faut que ça sorte à la porte. Les coulisses de cette pièce bondée, les joyeux drilles gesticulent avec le sourire carnassier. Alors que leur conspiration s'ébride par des trous de serrure, à la lueur d'une chandelle de sang striée de noir, leur sombre réunion se dévoile une forfaiture. On y trouve des lames fines et tout un tas d'accessoires. Sur la sortie de surine, pendant que tes potes urinent dessus, quand t'es accro, quand l'insuline te suffit plus. E diamo il bonjour a Maura Sassara con questo cognome che già mi ha comportato un errore ieri su Twitter e adesso lo devo anche dire con la mia S voce, è veramente una tragedia. Maura, benvenuta. Salve a tutti, salve agli ascoltatori. Allora, e comunque ti correggo di nuovo, non è Sassara, ma è Sassara. Veramente una, cioè, però questo era scontato. Era scontato, vabbè, sì, però sì. Socio, dimmele queste cose. Ti ho visto lanciato io. Poi... Vabbè, ero pure partito col francese sul rap, era una questione metrica. Vabbè, Maura, perdonami. Allora era Sassara, se era la questione metrica. Alla francese, va bene. Un po' come Bart Simpson, scriverò sulla lavagna tutto il pomeriggio, Sassara. 100 volte. Senti, allora noi volevamo darti il benvenuto, benvenuta anzi, e ovviamente farti i complimenti perché domani sulle classifiche, forse anche oggi, insomma, per chi è un po' più addentro o ha più detto ai lavori, già si sa, domani nella classifica della narrativa italiana comparirà un titolo che si chiama Neve, cane, piede di Claudio Morandini, e firma ex forma, è uscito ormai nel novembre del 2015 ed entra in classifica. A parte che è un libro molto bello, io l'ho letto appunto in uscita, ma cosa è successo, Maura? È successa una cosa straordinaria, è successo che partiamo dall'inizio, c'è un gruppo su Facebook che si chiama Bill il vizio di leggere, che ha circa 13.500 iscritti, tutti lettori forti, che già dallo scorso anno ha deciso di mandare in classifica un libro di un editore indipendente. Lo scorso anno c'era già riuscito e quest'anno ci si è riprovato nuovamente. E le classifiche sono già uscite, perché oggi sulla stampa, su tutti i libri della stampa, già abbiamo la classifica sia nazionale che per la narrativa italiana. Nella nazionale siamo al 7° posto e nella narrativa italiana siamo al 5° posto. Cosa è successo? È successo che i fondatori di Bill il vizio di leggere, quindi Angelo De Liberto e Carlo Cacciatore, hanno deciso di intraprendere un'iniziativa che aveva del pazzesco. L'iniziativa l'hanno chiamata Modus Leggendi, e in sostanza il meccanismo è questo: scegliere 5 libri di 5 editori indipendenti, farli votare ai propri iscritti ma anche all'esterno del di Facebook, e il più votato acquistarlo in una settimana precisa, e in modo tale da spingerlo nella classifica nazionale. I libri sono stati tutti commentati da Angelo Di Liberto, delle bellissime schede, recensioni, diciamo così, e quindi tutti quanti hanno votato il libro che ci suscitava più curiosità o che pensavamo ci potesse piacere di più. Quest'anno hanno partecipato più di 4.000 votanti, e il più votato è risultato Nelle cane piede di Claudio Morandini, e quindi in questa circostanza, diciamo, siamo riusciti ad entrare nella classifica nazionale con grande, grande nostra soddisfazione. Come dicevi te, il libro è uscito più di un anno fa, a novembre 2015, e il significato di tutta questa operazione è estremamente rilevante e importante, perché significa andare a scardinare certe classifiche che a volte, diciamo così, ci piacciono poco, dove magari compaiono a volte libri insieme a libri di straordinaria potenza e bellezza, ma anche libri, diciamo, più commerciali, se vogliamo così dire, tra virgolette. No, diciamo, quindi, anche libri brutti, ma ora possiamo anche, cioè io posso prendermi la responsabilità di poter dire una roba simile. In classifica molto spesso ci sono parecchi libri brutti. Anche perché poi magari un giorno male. No, ci senti male? Scusa. Un pochino male, sì. Ah, okay. Però andiamo avanti. No, dicevamo che comunque non è che se entri in classifica automaticamente è un buon libro. Spesso nelle classifiche ci sono dei libri che io non leggerei neanche sotto tortura, però questo è un altro discorso, anche perché poi il mercato delle vendite viene anche drogato secondo chi sei, che personaggio sei. Penso a tutti i libri di vari Bruno Vespa, tutti questi personaggi qui che stanno sempre sistematicamente in classifica, e ancora non ho capito chi e se li legge qualcuno. Ma a parte questo, a me interessava molto invece l'aspetto del social, nel senso che io non ho mai creduto che potesse funzionare ad esempio un esercizio del genere, invece funziona. Ce l'hai appena raccontato, 4.000 votanti non sono neanche pochi, non parliamo delle folle, però non sono poche persone che si mettono e si organizzano, tra virgolette, organizzano tutte insieme per leggere un libro ed esprimono un giudizio. Sì, non so, neanche pochi, considerate che l'anno scorso erano molto meno, credo che fossero attorno ai 1.500. Chiaramente dallo scorso anno ad oggi l'iniziativa che diciamo è riuscita nella prima edizione, ha avuto più slancio e ha suscitato sempre maggiore interesse nel pubblico, nei lettori, ma anche negli addetti ai lavori ovviamente. Devo dire una cosa, che diciamo il successo dell'iniziativa lo dobbiamo anche tanto a parte ai Billini, che da questi microfoni io voglio ringraziare tutti quanti, perché hanno dimostrato un entusiasmo e un'abnegazione straordinaria e si sono veramente prodigati in tutti i modi per diffondere, per far conoscere l'iniziativa e per spingere questo libro in classifica. Ovviamente voglio ringraziare anche i librai, in particolare i librai indipendenti, che per tutto l'anno profondono tantissimo impegno e ci seguono con attenzione, e per questo vi ringrazio, e anche ovviamente tutte le librerie di catena che poi hanno aderito a questa manifestazione e hanno portato anche loro avanti l'iniziativa. Sì, poi siamo seguiti ovviamente dai blogger, il libro ha già avuto tantissime recensioni, ce ne saranno forse un centinaio di libri su questo sito. E diciamolo, Mauro, un po' di cosa parla questo libro. Sì, perché abbiamo parlato di tutto. Abbiamo girato intorno un po' all'oggetto, ma diciamo, Claudio Morandini, cosa racconta in questo Neve, cane, piede? Guarda, qualcuno lo ha definito un libro di montagna, ma se vogliamo, diciamo così, se intendiamo legando ad un genere, diciamo che non è così. È un libro, secondo me, universale. È un libro che tratta... la montagna ovviamente c'è, evidentemente, però questo romanzo tratta una certa condizione umana, la solitudine, il sentirsi smarriti, l'invecchiare e tante altre cose. Adelmo Farandola, il protagonista, è un vecchio scontroso e scorbutico che vive in una bella maglia di montagna da solo, in un vallone assolutamente arido e sconfortante, e questo personaggio viene diciamo affiancato a un certo punto da un cane che non lo lascia più, che diventa il suo, diciamo così, alter ego. È un cane parlante, ma non è assolutamente un cane umanizzato, è un cane che ha mantenuto tutti i suoi tratti della sua specie. È un cane molto ironico, molto comico, e che dice le cose che Adelmo Farandola non ricorda più o non sa più dire, perché non ha più nessuno con cui parlare. Non sappiamo ovviamente se Adelmo Farandola immagina soltanto che il cane parli oppure se il cane parla veramente, ma questo ci interessa poco. In tutto questo, a un certo punto spunta al disgelo un piede da una valanga, e lì si snodano tutta un'altra serie di cose. Insomma, il libro è estremamente intenso, con una scrittura molto, molto asciutta e molto, molto diretta e molto efficace. Ci vuole una grande maestria, secondo me, per scrivere così come scrive Claudio Morandini. Libro che in effetti si legge anche diciamo in un paio di pomeriggi, non è un libro di molte pagine, il ritmo è effettivamente anche definito dal titolo stesso, sembra quasi in tre atti, con neve, la parte della neve, la parte del cane, la parte del piede. I riferimenti letterari che possiamo un po' immaginarci sono da Bulgakov a Rigoni Stern, tanto per tenerci un po' bassi. Ok, però Maura, io un'altra domanda ti volevo fare, perché abbiamo parlato dell'iniziativa Modus Legendi, abbiamo parlato di Morandini, Neve, Cane, Piede, ma Ex Orma è un progetto che invece va avanti da tanto tempo, e vorremmo anche chiederti un po' di cosa si occupa la casa editrice che hai fondato. Sì, partiamo dal nome. Ex Orma deriva da un verbo greco che significa levare gli ormeggi, salpare. Noi abbiamo una bellissima collana di letteratura di viaggio, siamo editori tra l'altro del Festival della Letteratura di Viaggio di Roma, che si svolge sempre tutti gli anni a fine settembre, e la nostra collana si chiama Scritti Traversi, perché vuole essere trasversale, cioè con diciamo il pretesto, se vogliamo, del viaggio andiamo a visitare certi luoghi, con approfondimenti su alcuni temi che possono essere l'antropologia, come la fotografia, come l'archeologia e così via. L'ultimo nato è Artico Nero, un bellissimo libro di Matteo Meschiari, molto molto narrativo. E poi abbiamo pubblicato di recente anche Salam è tornato, una bellissima storia ecologica ambientata in Siria, legata alla scomparsa dell'ultima colonia di Serenita presenti in quella zona. Quindi c'è la guerra, c'è l'ambiente, c'è l'ecologia, insomma tantissimi spunti di riflessione e argomenti. E poi abbiamo questa collana che sta via via prendendo forma, che è quella di narrativa, da un titolo a un nome un po' particolare, perché la collana si chiama Qui si scrive male. Diciamo scriviamo male nel senso che non ci vogliamo allineare con una certa letteratura che in questi ultimi anni ha sommerso un pochino le librerie, a volte un po' appiattita su certi argomenti e su certi stili. Vogliamo un po' differenziarci, non vogliamo seguire il plot, non vogliamo seguire la trama, non ci interessa che un libro abbia un inizio, uno svolgimento, una fine, ma cerchiamo qualcosa di più, cerchiamo la letteratura vera, il saper scrivere davvero, il saperci trasmettere delle emozioni e anche spingerci a delle riflessioni attraverso la letteratura e attraverso i romanzi. Questo cerchiamo e questo stiamo facendo. In uscita prossimamente, prima dell'estate, ci sarà un bellissimo romanzo di Enrico Di Vivo, un bellissimo romanzo di Marino Magliani e poi un nuovo inedito di Claudio Morandini, perché non potevo mancare. Guarda Maura, noi ti ringraziamo, noi di solito a fine intervista chiediamo sempre un consiglio, una cosa letta che così da spingere, ma tu già hai fatto tutto, no? Già ne hai parlato già di alcune prossime uscite o di cose che avete già messo in commercio, avete già messo sugli scaffali delle librerie. Noi quindi ti ringraziamo, ci sentiamo magari prossimamente quando sarà di nuovo il momento di raccontare un'altra delle vostre uscite e niente, buona giornata, ciao ciao. Grazie, a presto. Ciao, grazie a tutti. Non è 13:58, possiamo già dire che la trasmissione sta volgendo al termine. Facciamo il riassunto. Sassara, devo ripetere. Facciamo il riassunto di Gabbo. Abbiamo appena sentito Maura Sassara appunto di Exorma, dopodiché avevamo sentito precedentemente Mario De Fiati che ci ha parlato di Candore in Audi e Alessandro Robecchi che invece ci ha raccontato un po' del suo torto marcio Sellerio. E noi invece vi diamo l'appuntamento tra 15 giorni, torniamo con la nostra programmazione ogni due settimane, non so esattamente quale sarà la data precisa tra 15 giorni. Ma tu non sai manco i numeri degli autobus, che il 105 va di giorno. È anche notturno. Hai controllato? No, ma lo so perché lo incontro spesso e volentieri, sembra quasi che io tutte le notti sto a giro. No, ogni e tanto con questo amletico dubbio, secondo me, se il 105 vi daremo la risposta, giorno, il 105enne infatti, vi daremo la risposta prossimamente comunque. Ciao ciao. Ciao. Tu veux savoir vraiment à quoi je ressemble au commun des banlieusards. Je connais ces murs par cœur, man, qui ont broyé notre enfance. Un peu de fierté tout de même sur des figures de salauds. Chasse naturelle, il revient au galop. Trop de galères, cousin, pour rien de glorieux. Si ce n'est que la une des sous-sols, des quelques fanzines sérieux, des quelques tribunaux vitriols. Ne me demande pas de choisir entre la poudre et le plomb. Je suis ce feu qui se déclare dans un champ de cosmos. À ma fenêtre, le givre d'un jour d'hiver trop gris a ouvert un de mes livres au chapitre des incendies. Comme à l'accoutumée, comme un besoin trop mal sevré, j'y recherche des balles, quelques flèches létales et un peu de pomme au cœur pour la cuirasse d'un franc-tireur. Pour la cuirasse d'un franc-tireur. Un arsenal artisanal qui choisit ses mots comme encombrer un homicide et parfume ses phrases de quelques gouttes d'acide. Notre époque encore est celle des arbres morts, à quelques pas à peine des plus belles fontaines. Et si tu n'es pas né où il va falloir, comme dirait le vieillard, apprendre à voir clair dans le noir. Des coulisses aux planches, des coulisses aux planches, des jours sombres, nuits de revanche, nuits de revanche. Quelques rumeurs larvées, comme des braises qui menacent de s'enflammer après l'extinction d'un incendie. Des coulisses aux planches, des coulisses aux planches, des jours sombres, nuits de revanche, nuits de revanche. Quelques rumeurs larvées, comme des braises qui menacent de s'enflammer après.